Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli Invisibili di Nanni Balestrini, parte 23esima. Quando mi sono arrivate le notizie della fine di Gelso, l'inverno era quasi finito. Sopra il catino di cemento armato del cortile c'era un cielo azzurro e luminoso. L'aria era dolce quando soffiava il vento. Si sentiva l'odore del mare vicino. Cominciavamo a spogliarci giù all'aria, a toglierci le camicie e le maglie. Ci mettevamo lì sdraiati al sole. I nostri corpi bianchi respiravano, ma poi ci guardavamo e vedevamo sui nostri colli, sui toraci, sulle spalle, sulle braccia pallide, delle macchie più scure, dappertutto. Eravamo tutti coperti di quelle macchie che erano dei funghi e facevamo finta di non guardarci, di non vedere quelle macchie che ci coprivano tutti. È stato in quei giorni che mi è arrivata l'ultima lettera da fuori. Mi ricordo che era di Malva e mi parlava di Gelso. Gelso, alla fine, anche dietro pressione del medico del carcere che si era convinto del suo stato di squilibrio mentale, era stata accolta la sua domanda di scarcerazione. Era stato messo agli arresti domiciliari perché si erano convinti che in carcere non si poteva curarlo, che lì non faceva che peggiorare. E così era tornato a casa. Era tornato a abitare con la famiglia. E i primi giorni i suoi amici, i suoi compagni, quelli che lo conoscevano bene, che erano anche suoi amici d'infanzia e che gli volevano bene, andavano a trovarlo. Hanno cercato di stargli vicino, di aiutarlo come potevano, ma tutto sembrava inutile. Gelso ormai sembrava non riconoscere più nessuno, non volere parlare con nessuno, non voleva vedere nessuno. Aveva chiesto ai suoi genitori di non fare entrare nessuno nella sua camera, e anche lui non usciva mai dalla sua camera. Si faceva anche portare da mangiare nella sua camera. E in pochi giorni ha trasformato la camera in una cella, ha portato fuori tutti i mobili, ha voluto tenere solo una branda, un tavolo e una sedia. Teneva sempre la finestra chiusa e la luce accesa, anche di giorno, e ha cominciato a arredarla come una cella, con quelle cose che usano i detenuti, le scatole di cartone dei detersivi o della pasta, appese ai muri per farne delle mensole. E poi una sera ha mimato un'evasione. Ha annodato le lenzuola e si è calato dalla finestra. L'hanno ritrovato nel cortile con una caviglia slogata. Ha passato un mese senza mai uscire dalla sua camera. Viveva come in prigione e non voleva assolutamente vedere nessuno. E se vedeva qualcuno non lo riconosceva. Non riconosceva quasi nemmeno i suoi genitori, che naturalmente erano disperati. Non sapevano più cosa fare, ma preferivano tenerlo lì, anche in quelle condizioni, che così almeno non lo mettevano in un manicomio criminale. E dopo un mese, un giorno, l'hanno trovato impiccato nella sua cella, che era la sua camera. Una mattina l'hanno trovato lì, che si era impiccato, con le lenzuola annodate, con cui aveva mimato l'evasione, a cui aveva sempre pensato, e che neanche adesso gli era riuscita. La lettera di Malva finiva dicendo che dovevamo renderci conto di come le cose erano cambiate fuori adesso e che non ci immaginavamo come le cose erano diventate diverse fuori, come tutto fuori era cambiato. L'aria, l'atmosfera, il clima, i discorsi, la gente. Non dovevamo pensare che le cose erano rimaste come prima. Adesso la grande paura era passata, i padroni erano di nuovo sicuri di sé. Erano tornati a sfoggiare i loro soldi, le loro Rolls Royce per le strade, le loro pellicce, i loro gioielli alla Scala. E adesso tutta la gente e anche tanti di quei compagni pensavano solo a lavorare, a fare soldi e dimenticare tutto quello che era successo prima, quando si credeva che tutto forse stava per cambiare. C'è un silenzio strano la sera, dopo cena. Adesso non ci si chiama più da una cella all'altra. Si vedono i rettangoli azzurrini degli spioncini allineati, tutti illuminati dal riflesso dei televisori. Si spande un unico impasto di musica e di voci, monotono e ondulato. Il soffitto è spaccato a intervalli dai riflettori gialli che proiettano la grata della finestra enorme, che si schiaccia sul letto. Sei dentro una gigantesca scatola di sardine, schiacciate, compresse. Sei dentro una scatola chiusa, ermeticamente saldata. Cosa c'è fuori da questa scatola? Chi c'è fuori di qui? Cosa fanno? Cosa stanno facendo adesso? Perché continuano a fare delle cose? A fare tutte le cose che fanno? Senza di me. Dove sono io? Quale sono io? Qual è la mia faccia adesso? Che mi è rimasta solo la mia faccia qui, compressa, piatta, schiacciata. Ho rotto lo specchio con il piede dello sgabello. Ho buttato tutte le schegge nel cesso. Ho tirato l'acqua. L'ho tirata 5, 6, 7 volte. Ho continuato a tirarla fissando il buco nero del cesso, quel cerchio nero in cui l'acqua scendeva. Ci ho infilato la mano dentro. Poi, più in fondo, per sentire dov'era, il fondo. Ci ho infilato la testa, l'ho schiacciata giù, ma la testa non entrava, non riusciva a passare da quel buco, a uscire fuori da un'altra parte, a vedere fuori, a vedere dove sono, dove siete, quando eravamo 1000, 10.000, 100.000. Non è possibile che fuori non c'è più nessuno, non è possibile che non sento più niente, che non sento più una voce, un rumore, un respiro. Non è possibile che fuori c'è solo un immenso cimitero. Dove siete? Mi sentite? Non sento, non vi sento, non sento più niente. I riflettori di colpo spaccano il buio, illuminano a giorno la cella. Quando la luce opaca del mattino scivolava dietro le sbarre e le grate, le cose nella cella tornavano ad avere un aspetto insignificante e banale, di sempre. E riprendevamo a pensare, a immaginare come potevamo vedere, come potevamo farci vedere, fuori da quel carcere che stava diventando un cimitero, il luogo del massimo silenzio, dove non entra e non esce più un messaggio, una voce, un rumore. Ci siamo posti il problema di come riconquistarci una comunicazione con l'esterno e abbiamo deciso di cominciare nuove forme di lotta per spezzare quel silenzio di morte. Abbiamo cominciato con le battiture notturne delle sbarre. Ci si metteva d'accordo sull'ora durante l'aria. Non avevamo orologi, non avevamo sveglie, ma potevamo vedere l'ora sulla televisione accesa tutta la notte. E così, nel mezzo della notte, tutti insieme, alla stessa ora, cominciavamo a sbattere sulle sbarre, coi mestoli di legno, coi manici di scopa, con gli sgabelli, soprattutto con le pentole e i pentolini. E scoppiava il finimondo, perché tutti battevamo sempre più forte, anche quelli degli altri piani, che sentivano battere e si mettevano a battere anche loro, con noi. E in quel luogo chiuso tutte le celle, tutti i corridoi rimbombavano nella notte. Il carcere sembrava scoppiare, sembrava che veniva giù tutto. Però alla fine, quando piano piano i colpi finivano, veniva una grande tristezza, perché tutti ci rendevamo conto che battevamo soltanto per noi stessi e per le guardie, perché il carcere era in mezzo alla campagna, isolato, sperduto, in una grande distesa vuota, sconfinata, dove intorno non c'era nessuno che ci poteva sentire. Allora abbiamo pensato che forse potevamo attirare di più l'attenzione facendo le fiaccolate, però per fare le fiaccolate era più complicato, c'erano più problemi, perché c'erano le grate alle finestre. C'erano le grate di ferro che avevano messo oltre le sbarre per impedire di passare qualcosa da un piano all'altro. E allora abbiamo dovuto bucare le grate, abbiamo spaccato gli sgabelli e abbiamo fatto dei pezzi di legno a punta e con questi pezzi di legno lentamente e faticosamente riuscivamo ad allargare le maglie e a bucare la rete e poi a ingrandire il buco, finché ci potevamo far passare le fiaccole attraverso il buco. Abbiamo fatto i buchi in tutte le reti e poi abbiamo fatto le fiaccole. Le fiaccole si facevano con pezzi di lenzuoli legati, stretti e poi imbevuti d'olio. E allora anche lì, all'ora stabilita, nel mezzo della notte, tutti accendevamo l'olio delle fiaccole e infilavamo questi fuochi nei buchi delle grate, ma anche lì non c'era nessuno che li vedeva. Le fiaccole bruciavano a lungo, doveva essere un bello spettacolo da fuori, tutti quei fuochi tremolanti sul muro nero del carcere, in mezzo a quella distesa sconfinata, ma gli unici che potevano vedere la fiaccolata erano i pochi automobilisti che sfrecciavano piccoli, lontanissimi, sul nastro nero dell'autostrada, a qualche chilometro dal carcere, o forse un aeroplano che passava su in alto, ma quelli volano altissimi, lassù nel cielo nero silenzioso, e non vedono niente. Fine. Di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco ad altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari. Si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto. Libri ribelli. Giocare col mondo facendo a pezzi bambini che io so ha ridotto già vecchi. Libri ribelli.